in primo piano. Buongiorno di nuovo, buongiorno, buon martedì, perché giustamente un ascoltatore, e ringrazio tutti quelli che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp, giustamente mi dice, hai detto buon lunedì e dai è già martedì, vero, e poi anche l'ascoltatore da Sydney che dice è stata una bella giornata perché è notte in questo momento a Sydney. Sono un po' così, ho una visione molto elastica del tempo e dello scorrere del tempo. Torniamo sulle prime pagine dei giornali. Il Corriere della Sera, vi segnalo la fotonotizia che è relativa all'ultimo You're Fired di Donald Trump. Dopo 11 giorni Donald Trump ha licenziato il capo della comunicazione Scaramucci, che è uomo di eccessi, sembrava uscito da una serie TV, e questi eccessi gli sono costati in soli 11 giorni il posto, appunto, che Trump gli aveva dato di capo della comunicazione. Poi dietro ci sono, cioè probabilmente anche fa parte della strategia del nuovo chief of staff, capo dello staff della Casa Bianca, che è un ex generale che pare avesse detto di sì a Trump, anche lui è appena stato cooptato nella squadra del presidente, a patto però che da subito, immediatamente, se ne andasse Scaramucci. Titolo principale, come per molti altri giornali, riguarda la notizia che avete sentito anche nei GR dell'accordo non raggiunto di fatto, perché hanno firmato in pochi, per le nuove regole per le organizzazioni non governative, le cosiddette regole, cioè sono le regole di ingaggio delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo, in particolare in teoria in perfetto accordo con la Guardia Costiera nelle operazioni di soccorso, soprattutto delle navi che arrivano dalla Libia cariche di migranti. Vi segnalo però dalla prima pagina del Corriere della Sera, nel cosiddetto palchettone, cioè quello spazio subito sotto la testata, il richiamo all'intervista fatta da Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, al ministro dell'economia francese Bruno Le Maire. Quel Bruno Le Maire che, dopo un'anticipazione tra l'altro di Le Monde il 27 agosto della scorsa settimana, quindi aveva anticipato la questione della nazionalizzazione, che era un'opzione che il governo poteva legittimamente adottare, ma nessuno si aspettava che lo facesse, la nazionalizzazione dei cantieri STX per evitare che passino sotto il controllo di Fincantieri. Oggi, come avete sentito, c'è l'incontro a Roma. Vi leggo in particolare, trovate tutto a pagina 2, queste due domande e risposte. Stefano Montefiori chiede: le difficoltà sembrano concentrarsi sulla percentuale riservata a Fincantieri, non meno del 51%, dice l'Italia. Il ministro Calenda lo ha ripetuto ogni giorno negli ultimi giorni, vi ricordo io, non più del 50, dice la Francia. Ma ancora domenica sera il ministro Calenda ha ripetuto che tenere Fincantieri sotto la soglia del 51 è inaccettabile. L'Italia chiede di avere una maggioranza chiara, così come ce l'avevano prima i proprietari coreani, che, come tra l'altro mi ha segnalato un ascoltatore dopo che io avevo detto che i coreani avevano una percentuale leggermente superiore al 51, in realtà la percentuale di controllo dei coreani, che a un certo punto hanno appunto deciso di vendere la loro partecipazione nei cantieri di Saint-Nazaire ed è stata acquistata da Fincantieri, o meglio l'offerta di Fincantieri è stata accettata, quella percentuale era del 67, risponde Le Maire. Bisogna togliere le passioni da un dibattito che è innanzitutto industriale. La nostra volontà è di offrire all'Italia una partnership nel settore navale che vada a vantaggio di tutti. Ricordo che nel precedente accordo Fincantieri aveva il 48% e Montefiori, ma con il 6% della Fondazione Trieste. Appunto, non è l'approccio giusto. Il presidente Macron agisce in modo diverso, dice chiaramente la verità e si prende la responsabilità delle decisioni. Dare il 48% a Fincantieri e il 6% alla Fondazione Trieste significa cedere la maggioranza senza assumersene la responsabilità. Preferiamo proporre una condivisione in condizioni di parità, una soluzione onesta e trasparente, un accordo chiaro è sempre preferibile a soluzioni un po' arrangiate. E Montefiori però gli dice: il 51% diventa un po' un simbolo. E Le Maire risponde imperterrito: sì, e bisogna uscire dalla logica dei simboli per avanzare concretamente. Vedremo oggi cosa succede in questo vertice che ci sarà a Roma. La Repubblica, come il Corriere, titola sui migranti, a cui dedica anche La fotonotizia, Hong contro le regole e la replica immediata del Viminale, va bene, a questo punto sarete allora fuori dai soccorsi. Poi le notizie sul lavoro, quelle dal Venezuela e un richiamo a un'inchiesta che vedremo dopo, che è veramente di quelle che mettono tristezza e fanno riflettere sulle condizioni del nostro paese, su tutto quello che conquista le prime pagine dei giornali o i titoli dei telegiornali o le aperture dei siti internet troppo poco spesso, ed è la questione degli ecomostri, cioè degli abusi edilizi che poi sappiamo portano con sé anche lo sfruttamento del territorio e poi la mancata messa in sicurezza del territorio, che di cui ci accorgiamo solo quando poi ci sono eventi meteorologici eccezionali. E Federica Angeli appunto ci parla di questo viaggio nella penisola degli ecomostri, partendo da Sperlonga vicino a Latina, il paese degli abusi. Il Messaggero ha un'apertura molto simile a quella di Corriere Repubblica, le Hong ribelli escluse dai soccorsi, e poi grande spazio in prima pagina anche alla questione di Roma dell'ATAC, anche perché sì, è stato nominato Paolo Simioni, che però viene additato come, è stato additato come un pendolare, nel senso un pendolare dal nord, effettivamente è un uomo di fiducia dell'assessore Capitolino, ma Massimo Colomban, che a sua volta è, anzi viene definito proprio il braccio, Paolo Simioni, il braccio destro di Colomban, a sua volta Colomban è del Veneto, così come Simioni è di Treviso. Sono due uomini fortemente anche sostenuti da Casaleggio e da Grillo, e quindi vengono vissuti poi invece dagli esponenti del Movimento 5 Stelle di Roma, così dicono le ricostruzioni, non in completa serenità. Da qui Movimento 5 Stelle spaccato sul nuovo AD. Fotonotizia sul Venezuela, è una via di Caracas e c'è un carro armato fermo apparentemente, tutti e le tracce degli scontri che sappiamo hanno fatto 12 morti nel giorno delle elezioni, ma 125 dall'inizio della protesta contro il regime di Maduro. Chiamiamolo regime, anche se in realtà Maduro è stato regolarmente eletto, ma per esempio, e da qui ancora l'ennesima dimostrazione che probabilmente chi parla di regime ha ragione, Maduro dice che al voto di domenica sono andati il 41% degli aventi diritto, l'opposizione parla di circa il 10%. Una notizia invece che più che tristezza fa venire un po' di rabbia, lo troviamo poi all'interno dell'articolo completo, Diodato Pirone è andato a vedere le pensioni d'oro, le pensioni d'oro dei dipendenti di Montecitorio. Altro che superdotati vitalizi dei politici, basta dare un'occhiata ai conti della Camera, domani dovrebbe essere approvato il bilancio, da qui lo spunto di cronaca per parlare di questa questione, non è appunto così per sfizio, per essere colpiti da un dato persino più spinoso, l'incredibile record della spesa pensionistica degli ex dipendenti della Camera, che nel 2019, infatti questo bilancio è triennale, raggiungerà la vetta di 281 milioni di euro e la previdenza assorbe la metà delle risorse, quindi il resto va preso altrove. Come si sia arrivati nel tempo, ma naturalmente non vale solo per le pensioni dei dipendenti della Camera, a ritagliarsi in pochi tali privilegi è uno di quei misteri italiani che, secondo me, dei quali anche i vertici sindacali dovrebbero occuparsi. Però abbiamo visto che ieri, in una risposta piccata a un articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere, il presidente della UIL Barbagallo considerava l'essere riusciti a quadruplicare la pensione grazie ad un aumento dello stipendio fatto poco prima di andare in pensione per alcuni dirigenti sindacali, lo considerava e lo definiva una conquista. Quindi La stampa in linea con gli altri quotidiani, migranti, schiaffo delle Hong al governo. La fotonotizia però è dedicata a Neymar, che abbiamo sentito è l'uomo da 600 milioni di euro, non li prenderà tutti lui, naturalmente è un contratto molto, molto complicato, e Gigi Garanzini scrive un articolo che poi trovate a pagina 25, l'assalto finale alle regole del calcio, il cosiddetto fair play finanziario che impone ai club, anche a quelli spagnoli, in generale a quelli europei, ne sanno qualcosa in Italia, squadre come il Milan e l'Inter, impone di non strapagare o comunque fare spese folli per non far andare i bilanci in rosso, che perché la ratio sotto questa regola qual è? Che soltanto aziende che poi sono controllate da società che magari possono sopportare queste perdite, possono di conseguenza permettersi questi acquisti milionari e così falsare il mercato, perché invece società che semplicemente vivono degli incassi normali, dai diritti della TV, dai biglietti, non possono permettersi di andare in rosso e quindi hanno automaticamente uno svantaggio, e da qui la definizione di fair play, che vuol dire fair è onesto, ma fair play in inglese significa appunto giocare con onestà secondo le regole in tutti i campi. Il Giorno sceglie di titolare su questo fatto che ha reso noto ieri Mauro Corona, lo scrittore e scultore, che sapete vive in provincia di Pordenone, qui a Radio 24 lo avete sicuramente sentito più volte. Dei ragazzi gli sono entrati in casa, pare così per puro divertimento, noia, hanno vandalizzato alcune delle sue sculture, e lui molto duro ha dichiarato a più riprese, a più organi della stampa, li avrei, francamente, avevo l'istinto di ucciderli. La nuova legge, il fatto si collega alla legge sulla legittima difesa, che non, ha un po' scontentato tutti, ma su questo, perché appunto il Giorno mette questa storia in prima pagina con una foto di Mauro Corona, ne parlano quasi tutti i giornali, ma volevo leggervi La Maca di Michele Serra, che proprio di questo parla sulla prima pagina di Repubblica. L'artista alpestre Mauro Corona, che insegue con l'ascia i tre vandali che gli hanno sfasciato la casa, non è di buon esempio e lo sa. Eppure non riesce facile fargli la morale, intanto perché è andata a finire bene. I tre imbecilli avevano, dei giovani, almeno la virtù di correre forte. E poi perché Corona è stato il veemente ma efficace interprete, in questa occasione, di alcune delle nostre più comprensibili debolezze. «Non ho reagito al danno, ma all'umiliazione», ha detto a mente fredda. «L'umiliazione dell'uomo di montagna che ha sempre vissuto del suo lavoro, del frutto delle sue mani e del suo cervello, e vede tre giovanotti uscire brilli, o in altro modo alterati, da una adunata di fracassoni, una delle tante, e per divertimento violare la sua casa, distruggere le sue sculture, insomma sputare sulla sua stessa vita, per gioco». La questione della sicurezza è da tempo purtroppo una rissa politica, con esecrabili speculazioni sulla paura e incaute sottovalutazioni della stessa. Se al centro della questione ci fosse l'interesse per gli esseri umani, i loro errori e il loro destino, la parola umiliazione pronunciata da Corona aiuterebbe a mettere meglio a fuoco di che cosa si parla quando si parla di una casa violata. E questa è la vicenda appunto di Mauro Corona. Anche l'Avvenire titola su quello che viene definito giustamente il naufragio del nuovo codice per le ONG in mare, hanno firmato soltanto in due. Fotonotizia dedicata al Venezuela, Maduro attacca al Parlamento, tensione alle stelle. Il Secolo XIX, che come sappiamo è molto coinvolto, essendo il quotidiano di Genova, nella vicenda di Fincantieri, che a Genova ha la sua sede principale, e quindi il titolo Fincantieri STX spunta il piano B, e qui appunto è quello di cui si discuterà oggi, come dicevamo, a Roma. Poi in prima pagina questa notizia che sugli altri giornali trovate all'interno, il fatto di cronaca terribile: nella notte tra venerdì e sabato è morta questa ragazza di 16 anni per aver ingerito una pasticca di ecstasy. Sono indagati i presunti spacciatori, le indagini continuano, la ragazza era di Chiavari, il fatto è successo a Genova. Gli SMS cancellati mentre Adele moriva, il fidanzato e l'amico restano in carcere, e la ragazza uccisa dall'ecstasy a Roma, ci sono delle accuse di inquinamento delle prove, perché appunto evidentemente lei in questi SMS qualche cosa su come era andata questa vicenda, l'acquisto dell'ecstasy da questi spacciatori, qualche cosa trapelava. Ci lasciamo però un attimo per una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS. Eravamo sulle prime pagine, ci manca quella del Fatto Quotidiano, che sceglie di titolare su, ne abbiamo accennato brevemente parlando dell'inchiesta del Messaggero sulle pensioni dei dipendenti della Camera, e c'è, come avete sentito settimana scorsa, è in corso questa votazione sull'abolizione dei vitalizi, dei cosiddetti vitalizi dei parlamentari, comunque una sorta di pensioni d'oro, lo ricordiamo, calcolate non in base ai contributi ma in base all'ultimo stipendio, quindi in un modo diverso da come sono calcolate le pensioni di tutti noi contribuenti, quasi tutti noi contribuenti. Da qui il titolo del Fatto Quotidiano: le Camere in ferie, il Movimento 5 Stelle votare subito i vitalizi, ma pare ci sia un no del PD. Bocciata la richiesta di portare il testo in aula prima della lunga pausa estiva, i nostri parlamentari hanno questa pausa estiva di 40 giorni. E poi un'inchiesta su un tema che sicuramente è molto importante, che è quello da quando è stata abolita la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, su come vengono finanziati i partiti o i singoli politici. Un tema che per esempio in altri paesi appunto impone l'assoluta trasparenza, e da qui anche tutte le leggi sui lobbisti e su chi paga i lobbisti. In ogni caso il Fatto Quotidiano si concentra in particolare su NCD, il partito di Alfano e del ministro della salute Lorenzin, e scopre per esempio che quasi il 10% delle entrate del nuovo centrodestra arrivano dalla lobby che vuole buoni rapporti con il Ministero della Salute. Per esempio, tra i grandi finanziatori c'è l'associazione AIOP con 60.000 euro. Il silenzio sul fine vita e la morte della politica. Questo è un titolo completamente diverso dagli altri giornali, di un articolo di Melania Rizzoli, che è un medico, oltre che essere una collaboratrice fissa di Libero, scrive quasi tutti i giorni con temi che in qualche modo hanno a che fare con la salute. E in questo caso, siccome in Italia ancora non c'è, lo sappiamo, una legge sul fine vita, Melania Rizzoli torna su questo tema e dice: la legge che disciplina i casi di persone terminali o in stato vegetativo non viene approvata per viltà e sudditanza culturale. Onorevoli e senatori sono capaci solo di fuggire dalle proprie responsabilità. La verità: aumenta il lavoro, cala lo stipendio. È un approfondimento sui dati dell'Istat di cui abbiamo parlato, resi noti ieri, molto critico, perché si guardano soprattutto, è chiaro che come tutti i dati si può vedere o il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. La verità si concentra appunto per esempio su questo, sul fatto che crescono gli inattivi e i lavori precari e invece le retribuzioni scendono. Il manifesto codice a sbarre, il riferimento con una foto è quello al nuovo codice che abbiamo visto è stato di fatto è fallito, questo nuovo codice per le regole per i salvataggi. Il Medici Senza Frontiere, per esempio, che è una delle, rispondo anche all'ascoltatore al quale non piace che io pronunci ONG, o probabilmente preferisce ONG, lo faccio volentieri, quindi ONG divise sulle nuove regole per i salvataggi, il Medici Senza Frontiere, che è un'organizzazione non governativa internazionale, forse tra le più serie e rispettate, non ha firmato il codice voluto dal Viminale, perché prevedeva anche, ed è una cosa che con il codice interno del Movimento 5 Stelle non può convivere, appunto la presenza di armi a bordo delle navi di salvataggio. Il giornale si concentra su una notizia che è passata un po' inosservata. C'è stato un altro attacco hacker nei giorni scorsi, in particolare i pirati informatici, questi geni dell'informatica che riescono a superare le barriere dei computer, i firewall, tutti quei appunto quei muri che in teoria dovrebbero difendere i computer delle persone o delle aziende dall'esterno, sono riusciti in realtà a entrare nella rete di Unicredit, che è la seconda banca italiana, e quindi il titolo del giornale: gli spioni conoscono i debiti di 400.000 italiani rubati dai pirati informatici, dati sui prestiti di Unicredit. E per oggi, magari se riesco lo farò tutti i giorni, vi segnalo anche le pagine di quattro quotidiani, le prime pagine di quattro quotidiani stranieri. Quasi tutti aprono sulle quello che sta succedendo alla Casa Bianca, perché colpisce molto che ormai a quasi un anno dall'insediamento, dalle elezioni, novembre sarà passato un anno, e poi in gennaio un anno dall'insediamento di Trump alla Casa Bianca, continuano a esserci tutti questi tentennamenti e questi cambiamenti nello staff. E ricordiamo, insomma, gli Stati Uniti, e quindi il suo presidente, in questo caso Donald Trump, è il paese più importante al mondo, il punto di riferimento. E quindi, per esempio, la Frankfurter Allgemeine Zeitung titola "Ein großartiger Tag im Weißen Haus", un giorno molto particolare alla Casa Bianca. La foto è scelta ad arte, naturalmente. Trump che sembra quasi urlare di spavento, di rabbia, non si capisce bene. Comunque, naturalmente, il riferimento è al licenziamento lampo del portavoce Scaramucci. Invece Le Figaro apre sul percorso verso le Olimpiadi del 2024, dopo l'accordo fatto da Los Angeles per ospitare, con il Comitato Olimpico, per ospitare quelle del 2028, il 2024 potrebbe appunto essere l'anno di Parigi. New York Times naturalmente titola sulla questione della Casa Bianca. New York Times sia proprio, addirittura forse un po' violando la regola dei fatti distinti dalle opinioni, è palesemente un oppositore critico di Donald Trump, e lo fa sia a partire dai titoli degli articoli e poi naturalmente dagli editoriali, perché l'articolo che dovrebbe appunto essere cronaca in realtà è questo: "Chief of Staff asserts control starts by firing Scaramucci". Quindi il capo dell'osservatorio fa un primo atto assertivo, assert control, il capo dello staff naturalmente è quel generale Kelly di cui parlavamo prima, e inizia firing, che è un modo molto forte di dire licenziare, e comincia col licenziare Scaramucci. Il Guardian a sua volta titola su Trump con tra l'altro due titoli, perché uno è il licenziamento di Scaramucci, e con un'analisi che si intitola "Alla Casa Bianca regna il caos", e l'altro riguarda in realtà il retroscena sul resoconto che ha dovuto dare il figlio di Trump, il figlio maggiore di Trump, sui suoi incontri con esponenti del governo russo, perché secondo il Guardian ci sarebbe stato Donald Trump stesso, cioè il padre di Donald Trump Jr., a sostanzialmente scrivergli questo resoconto. Bene, torniamo invece ai giornali italiani, alle pagine interne. Sul Sole 24 Ore vi segnalo, a proposito di ONG, prendiamo la questione da un punto diverso, da un punto di vista molto Sole 24 Ore. Pagina 7 è un articolo di Riccardo Ferrazza: ONG top 10 da 500 milioni di entrate. Cresce la raccolta di fondi, è cresciuta nel 2016 del 23,5%, e in queste organizzazioni che appunto vivono di donazioni, c'è ci racconta Riccardo Ferrazza, una sfida, che è quella della diversificazione per le fonti di sostegno. L'organizzazione, il valore delle entrate, quella con le entrate maggiori nel 2016, è Save the Children, che ha chiuso con 101.000 euro, in crescita del 20,39% rispetto al 2015. Invece, tra queste 10 prese in tra l'altro al quinto posto c'è Emergency, per esempio, con 48.000 euro. In questo caso i fondi sono scesi del 6,24%, e al secondo posto c'è l'UNICEF, al terzo Medici Senza Frontiera, al quarto Intersos. Pagina 7 del Sole 24 Ore di oggi. Un'altra questione che è molto difficile da comprendere per i non esperti, qui bisogna avere delle competenze incrociate da una parte di finanza, dall'altra di tecnologia, ed è appunto la cosiddetta fintech, cioè la finanza tecnologica. Ci racconta lo stato dell'arte e anche i rischi Vittorio Carlini, partendo da un report di PricewaterhouseCoopers. Il titolo, trovate l'inchiesta pagina 9: "Banche con il fintech a rischio in 5 anni, il 24% dei ricavi globali". la reazione degli istituti, più partnership con startup e innovazione, perché appunto c'è questa componente tecnologica che deve mischiarsi, mischiarsi ma nel modo giusto con le regole bancarie, e ci sono i vari settori coinvolti, quindi le banche, le assicurazioni, asset and wealth management. Molto interessante, appunto questa è una vera e propria inchiesta di Vittorio Carlini, Finanza e tecnologia, le nuove frontiere del credito, pagina 9 del Sole. Prosegue l'agenda del professionista che abbiamo visto ieri, di cui abbiamo visto ieri la prima puntata. La seconda puntata, compensare con il fisco, la stretta contro le frodi, il visto di conformità, il canale telematico. Anche qui argomenti molto tecnici ma che interessano molte persone, o direttamente o grazie agli intermediari. Un aggiornamento sulla vicenda Alitalia, trovate su tutti i giornali, ma il più completo è quello sul Sole 24 Ore, pagina 23. Ecco il bando per la vendita, cessione in blocco o separata, quindi quello che viene definito con un termine un po' colorito, insomma l'ipotesi spezzatino, c'è ma soltanto per una parte, e apre la cosiddetta data room il 7 di agosto. È una immagine che mi ha sempre fatto molto effetto, non so perché, ma mi ricorda un'astronave. In ogni caso, quando c'è una trattativa in corso di questo tipo, di questa importanza, c'è appunto l'accesso libero ai dati, perché tutti quelli che sono interessati possono veramente fare un fact checking e soprattutto un number checking per capire se dar corso alle offerte iniziali, e qui viene chiamata appunto data room. Vi segnalo, visto che abbiamo riparlato della morte della ragazza di 16 anni per una pasticca di ecstasy a Genova nella notte tra venerdì e sabato, un interessante articolo di Andrea Galli a pagina 21 del Corriere della Sera, che ha incontrato uno spacciatore. E il titolo è: io trafficante di coca a Milano lavori da Dio, è un virgolettato, vendo etti interi anche ai vostri figli, la roba entra in discoteca con la security o i DJ, la tolleranza zero è solo una favola. E c'è questa classifica inquietante: Milano è l'11ª città in Europa per consumo di cocaina, secondo l'Osservatorio Europeo dell'Unione Europea sulle droghe e la tossicodipendenza. Nel 2016 nel capoluogo lombardo sono stati consumati 306,6 mg ogni 1000 abitanti. Al primo posto però c'è Anversa, seguita da Londra e Zurigo. Un articolo che secondo me è fatto bene, lo studio è fatto bene, le conclusioni sono di estremo buon senso, ma sembra un po' appunto il buon senso fatto ricerca, ma ben venga. Il titolo è: comprate il nostro tempo. Ci sono, secondo gli studi di 4 università, i soldi rendono felici se ci regalano libertà dalle incombenze quotidiane. Credo che non ci sia niente di più vero. Abbiamo letto, mi sembra proprio sabato, la notizia di questo maggiordomo aziendale introdotto dalla Gucci come bene aziendale, il maggiordomo aziendale nel senso che ci sono, la Gucci non è l'unica azienda che lo fa, ce ne sono anche tante altre, anche più piccole, che appunto offre dei servizi gratuiti, come banali, come la lavanderia, però la tintoria, però insomma a volte l'incubo di dover andare a ritirare per esempio i pacchi della tintoria ci rende comunque più ansiosi, e quindi se i soldi servono a semplificarci la vita e quindi ci regalano anche del tempo, ci danno veramente la felicità. Ci lasciamo un attimo però per la seconda pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli. Siamo qui arrivati all'ultima parte della nostra rassegna stampa. Sulla morte di Sam Shepard, drammaturgo, attore e anche scrittore, l'articolo più bello secondo me è quello del Corriere a pagina 34 di Matteo Persivale. Tra l'altro Sam Shepard vinse anche un premio Pulitzer per un suo libro, Il bambino sepolto, e ha avuto tantissime partecipazioni, forse sempre mai in ruoli principali, ma in quei ruoli secondari che poi magari si ricordano ancora di più di quello principale. Ricordo per esempio era il generale che guidava le operazioni nel film di Ridley Scott, Black Hawk Down. Matteo Persivale ce lo racconta: una vita in lotta contro il padre con il quale non si riconciliò mai, la tequila, perché aveva anche dei problemi appunto con l'alcol, e poi la malattia degli ultimi anni. Dalle pagine interne della Repubblica invece vi segnalo quella inchiesta che è richiamata in prima pagina: i nuovi ecomostri, cemento selvaggio e abusi edilizi, viaggio nell'Italia degli scempi. Pensate che a livello nazionale, poi naturalmente ci sono delle differenze regionali molto ampie, a livello nazionale sono il 17,6%, la percentuale nazionale di nuove costruzioni abusive nel solo 2015. Dalla pagina invece, dalle pagine interne del Messaggero, questa è un'altra notizia un po', non so, da mani sul volante o comunque che mette molto scoramento. Sapete che dopo tutto quello che è successo nel 2016 e nel 2017 negli istituti bancari, che sono alla fine abbiamo dovuto salvare, soprattutto con denaro pubblico, parlo delle famose quattro banche, poi c'è il Monte dei Paschi e adesso ci sono le banche venete, e è stata chiesta nei mesi passati una commissione d'inchiesta, un'indagine parlamentare. Quello che riescono a fare i nostri parlamentari è litigare per chi deve avere la presidenza di questa commissione, anziché farla partire e magari dare veramente delle risposte su come si è potuto arrivare a questi disastri bancari. E ci racconta questo retroscena il Messaggero a pagina 8. Oh, torna la Brexit, di cui ci dimentichiamo a meno che non succeda qualcosa, ma il Regno Unito, lo sappiamo, ha votato per uscire dall'Unione Europea nel giugno del 2016. Ancora non si sa bene che regole avrà questa Brexit. La Stampa ci racconta gli ultimi sviluppi. May, il premier britannico Theresa May, alza i toni con Bruxelles, torna sul tema della libera circolazione delle persone, che dal 2019 annuncia finirà, e smentisce così la linea morbida di Hammond, che è la persona scelta per negoziare la Brexit, i termini della Brexit, e ribadisce: niente resterà uguale, e così si complica il negoziato con l'Europa. Vi dicevo l'articolo su quello che viene definito il calcio fuori controllo dopo l'annuncio di questo trasferimento record di Neymar. C'è a pagina 35 della Stampa questo tabella, l'escalation senza fine, affari più cari a livello mondiale per quinquennio. Il primo quinquennio che si cita è quello dal 1995 al 2000. In quel caso il record fu di Christian Vieri, che passò dalla Lazio all'Inter per 49 milioni. La cifra era già molto aumentata nel quinquennio dal 2000 al 2015, in quel caso Zidane per 75 milioni dalla Juventus al Real Madrid, poi Cristiano Ronaldo dal Manchester United al Real Madrid per 94 milioni nel 2009. Altro quinquennio 2010-2015, Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid per 100 milioni, e invece nel 2016 abbiamo avuto Paul Pogba 105 milioni dalla Juventus al Manchester United, quindi appunto un'escalation senza fine. Un aggiornamento dal Fatto Quotidiano sulla Turchia, perché naturalmente anche in Turchia continuano a succedere molte cose, anche se siccome non ci sono fatti eclatanti, è un po' come se ce ne fossimo dimenticati della grande fase di cambiamento che sta attraversando il paese. Turchia inizia il processo alla notte dei lunghi coltelli, così viene definita la notte del 15 luglio 2016, ricorderete il giorno dopo l'attentato in Europa, c'era stato il terribile attentato in Francia sulla Costa Azzurra a Nizza, e il giorno dopo il fallito golpe in Turchia. Alla sbarra 485 imputati accusati del tentato golpe, fra loro anche il generale Akin Öztürk, ex capo dell'aviazione. Altro paese su cui si spengono e si accendono i riflettori così in modo quasi anche imprevedibile, se vogliamo, parliamo dell'Afghanistan, e il Manifesto racconta questo ultimo attacco all'ambasciata dell'Iraq a Kabul, titola il Manifesto: cacciati da Mosul colpiscono a Kabul, lo Stato Islamico attacca l'ambasciata d'Iraq nella capitale afghana, strage mancata per un soffio. Sono morti due civili e i quattro del comando. Oddio. qui aggiornamenti sull'ATAC che sono vanno una vicenda che sicuramente va seguita, ma sembra non esserci limite alle notizie negative che saltano fuori. Libero, per esempio, spiega che l'azienda dei trasporti romana, che è a un passo dal crack, oltre ad aver aumentato le poltrone, ha delle regole interne per le quali, se fallisse, i lavoratori avranno 4 anni di stipendio. Nel buco da 1.300 milioni ci sono anche gli ammortizzatori e gli scivoli d'oro per i dipendenti. E poi c'è anche il fatto di cronaca, l'abbiamo visto anche su altri giornali, con la nomina alla presidenza appunto del braccio destro dell'assessore Colomban per prendere il posto del dimissionato Bruno Rota e Paolo Simioni, il nuovo direttore generale. Vi segnalo una pagina intera dell'Avvenire sulla situazione in Puglia, sempre gravissima, sul caporalato, sul lavoro abusivo. Pochi mesi fa è stata varata anche una legge sul caporalato. Il governatore della Puglia Emiliano se ne occupa marginalmente, quando io mi sembra un problema enorme dal punto di vista sociale, ma anche essendo poi lui uomo di sinistra dovrebbe davvero essere una priorità il caporalato, lo sfruttamento del lavoro. Soltanto l'Avvenire racconta questi ultimi fatti di cronaca da Foggia, dove è stato demolito l'insediamento abusivo per i raccoglietori di pomodori. Scrive, titola l'Avvenire: il ghetto è stato abbattuto ma gli schiavi restano. E poi ancora anche le truffe fiscali che ruotano intorno al business dei braccianti. Falsi braccianti, truffa continua. Questo invece è accaduto a Cosenza, scoperto nel Cosentino un ennesimo giro di contratti fasulli. Giorni di maternità e malattia pagati a finti lavoratori, frodati 880.000 euro all'INPS. Terzo caso in due mesi nella zona. Nel 2016 1.440 denunce. Ma questo veramente mi sembra un tema che dovrebbe essere al primo posto di chi governa le regioni. Così non sembra essere. Una buona notizia di questo festival, ha parlato anche a Si può fare Alessio Maurizi in una delle ultime puntate prima della pausa estiva, ed è la rassegna Risorgi Marche, ideata da Neri Marco Re, che vuole dare così un contributo con quello che lui può fare in qualità di uomo di spettacolo alla rinascita delle zone terremotate delle Marche. La rassegna ideata da Neri Marco Re unisce la canzone d'autore e la scoperta dei luoghi colpiti dal terremoto. Marche, strada facendo. E c'è una bellissima foto appunto dei primi incontri di questo festival. Abbiamo tempo ancora per un paio di segnalazioni e quindi torno sul Corriere della Sera per una storia anche qui che viene da un luogo di cui forse dovremmo ogni giorno cercare di trovare un aggiornamento, e parlo della Palestina, in questo caso in particolare di Gaza. Davide Frattini ci racconta di questo cimitero dove vivono 150 donne e usano i marmi come tavolo, il bucato fra le lapidi. Gaza, vivere tra le tombe. E il problema naturalmente è legato al fatto che molte persone, che non ci sono alloggi sufficienti nella striscia di Gaza, e decine di famiglie vivono dentro una baraccopoli costruita nel cimitero Sheikh Shaban. Un'altra bella storia invece, non un'altra, questa è una bella storia, quella del cimitero naturalmente non lo è, è quello che a pagina 13 della Repubblica ci racconta Jaime D'Alessandro, il Silicon Village, l'astronave di Apple, le serre sferiche di Amazon, il campus di Facebook, miliardi investiti in sedi avveniristiche e con un'attenzione enorme alla sostenibilità ambientale. E però forse c'è un'altra faccia della medaglia che ci racconta Jaime D'Alessandro: sono sempre più chiuse al mondo, cioè sono dei luoghi di cui conosciamo tutti, perché chi li ha costruiti, chi li ha sviluppati, gli architetti, chi li ha arredati, tra l'altro moltissime aziende italiane contribuiscono agli arredi più high tech che ci sono all'interno di queste sedi, ovviamente hanno interesse a parlarne, poi però non sono aperte al pubblico. Uno può dire è normale, e però forse è anche un peccato. Ultimissima segnalazione, anche qui divertente, un articolo di Andrew Kay, tradotto dal New York Times su Repubblica, sugli sport molto bizzarri della Finlandia. Calcio nel fango e sauna, in Finlandia tutto fa sport, purché sia molto strano. Il paese scandinavo è la patria delle discipline sopra le righe, incluse la caccia alla zanzara e il lancio del cellulare. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie ancora a Peter Bescapè in regia, un grazie a tutti voi, a chi ha mandato messaggi, e buon martedì e appuntamento a domani da Giulia Crivelli.